Buonasera, noi siamo i Get Mosh, venite avanti e... Fate là dietro, venite avanti! Unico pezzo cantato in italiano, dedicato alla nostra amica Chiesa, a cui vogliamo tanto bene. Chiesa di merda! Fuck! Il pezzo che sta sulla compilation che presentiamo stasera, dedicato a tutte le lotte no tab e a chi da anni sta combattendo per non distruggere quello che ha. Non un passo indietro. Shake the foam! Shake the fucking foam. Solo pezzi nuovi, se ne primi pezzi nuovi, tranquilli. La frase è dedicata a una capra che c'era molto a cuore. Puriano. Aspettate che ricominciamo. Thank you. Grazie a tutti!